dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Così, cioè, così. È proprio in apertura, cioè uno è distratto un attimo, non può che mettere neanche la sigla, che subito tacchete, c'è un terzo gol dell'Inter. Il secondo di fila di Ricky Alvarez, ha fatto un dribblone di quelli ubriacanti sulla sinistra, è entrato e proprio di sinistro ha infilato a fil di palo, quindi 3-1 per l'Inter sull'Atalanta, mentre il Napoli vince ancora 2-0 sul Genoa. Vai, dai anche i gol del Napoli, dai, che ci sono tutti quelli che fanno il fantacalcio, che sono un po' Napoli, vabbè, nel Napoli chi è che segna in questo periodo? Cavani non segna, Hamsik non segna, chi vuoi che segni? Zemaili, e infatti di colpo è diventato il goleador che tutti si aspettavano o che nessuno si aspettava, insomma. Esatto. Zemaili ha messo il secondo gol, mentre il primo gol è stato segnato da Pande. Per quanto riguarda l'Inter, largo ai giovani con Rocchi che segna l'1-0, poi pareggia Bonaventura dell'Atalanta e la doppietta, ne abbiamo parlato pochi istanti fa, di Alvarez, quindi Inter 3, Atalanta 1. È un risultato che va molto in questa giornata. Vabbè, adesso l'Udinese ha vinto 3-1, il Palermo 3-1, poi l'Inter 3-1. Vabbè, basta, cioè, voi non è che ci sono. Anche la Juventus doveva vincere 3-1. No, doveva vincere 7-0. 3-1. 7-1, via, proprio perché sei tu. Ricordiamo che imbarazzante. Il Pescara, ricordiamo che ha fatto nel girone di ritorno un punto. Un punto solo. Un solo punto. Esatto. Vabbè, stava insomma per fare il secondo con su la Juventus. Su quanti? Perché poi la cosa importante è su quanti punti. Siamo al 31esima giornata, quindi sono 12. Sono 19 le giornate del girone d'andata, quindi sono 12 giornate, perciò c'erano 36 punti in palio. Ne ha fatto uno. Ecco. Stava per fare il secondo punto proprio con la Juventus. Situazione piuttosto incresciosa, è del tutto inutile. Poi dopo, vabbè, per fortuna, Penizzoli si è riscoperto il portiere che tutti quanti conosciamo. C'è una munizione, guardiamo tutti l'area, forse si parla di rigorino buttato lì così, stiamo parlando di un rigore per l'Atalanta, se non sbaglio. Dennis, ma attenzione perché c'è rigore anche a Napoli sciambola, rigore da tutte e due le parti, però questa volta è a favore del Napoli, quindi vabbè, Cavani che butta lì dentro la palla come nulla. No, aspetta che deve tirarlo Cavani, cioè non è fallo di Cusca. Adesso Cavani sbaglia adesso. Potrebbe essere ridicolo, dai. Su. Allora Kučka arpiona la caviglia destra di Hamsik, la caviglia sinistra di Hamsik, quindi rigore per il Napoli e rigore anche a San Siro per l'Atalanta. Ma Cavani mette il palloncino. È fantastico, perché in questi momenti qua la moviola fa capire quanto sarebbe inutile la moviola in campo, perché ho visto la caviglia destra, tu hai visto la caviglia sinistra. Esatto. Intanto parte subito quello dell'Atalanta, Dennis, e c'è il gol. Anche Dennis, 3-2, tutto vivo qui Napoli. Beh, adesso tutto vivo, aspetta un attimo. 3-2 però, infatti, perché dava fastidio il 3-1, arriva Cavani. Parte Cavani, la parata ma di non Fre, è possibile, è incredibile, ma dai, e ha sbagliato Cavani. Pensa, settimana scorsa, ma quanto gliel'hai tirata? Scusa, io non ho detto niente. Le registrazioni, sarà il podcast che sentiranno tutti quanti che tu gliel'hai tirata. Roberto, riavvolgi il nastro, rimanda in onda Sergio che gufava contro Cavani. Dai, su, riavvolgi tutto. Dai. Veramente una cosa, veramente esatto. No. Il risultato 3-2 dell'Inter sull'Atalanta dopo il rigore di Dennis. Invece non ha segnato il 3-0 Cavani, quindi ancora Napoli in vantaggio 2-0 sul Genoa. Tanti gol, 7 gol in due partite, tanto. Stasera veramente una roba fantastica. Terzo rigore sbagliato consecutivo dal Napoli. Esatto. Due di Cavani, ci sottolinea ovviamente il preziosissimo Giorgio che dall'altra parte ovviamente è attento a tutto quello che accade nel Napoli, in particolare, però a parte questo, cuore biancazzurro Giorgio De Luca, vabbè, che adesso non esagerare, cioè... ricordavo che aveva sbagliato il rigore Hamsik col Torino, non mi ricordavo che anche quello precedente di Cavani fosse stato sbagliato. Vabbè, tanto che gli frega, tanto non è che hanno bisogno di tutti questi, poi Cavani figurati, quanti ne ha fatti? 20-21? 20-21, sì, quelle parti lì, insomma, vabbè, sono cose che succedono comunque, vabbè, insomma, sono cose anche belle per certi versi. Ricordo che la notizia invece più incresciosa è che in realtà si è fatto male Cassano, sì. Infortunio, e quindi si è fatto male anche lui, quindi dopo Palacio anche Cassano, problema muscolare in questo caso, e quindi se ne stanno, se, insomma, si è fatto un po', comunque è uscito fuori dal terreno di gioco, via, sì, come se lo fudesse. C'è da dire che l'Inter non è che abbia sofferto tanto, perché nel momento in cui è entrato Alvarez al posto di Cassano allo stadio tutti si sono messi le mani nei capelli, poi adesso ha infilato due pere, quindi poi sta grande cosa negativa non c'è. In questo momento l'Inter sta giocando solo con Rocchi di punta, però, con Alvarez che fa un po'... Mentre questa partita le due partite stanno proseguendo, però stanno proseguendo l'MLM quate, siamo intorno al 21esimo per quanto riguarda il Napoli, quindi più o meno anche a Milano saremo verso quel minutaggio. Noi andiamo a parlare anche di altro, andiamo a parlare di cose strane, di cose di viaggi, andiamo a parlare di cose inquietanti per certi versi, per la loro complessità, ma che però hanno un senso, e ne parliamo con Tommaso Racco. Pronto Tommaso? Pronto, buonasera. Ciao. Senti, io in realtà devo confessarti questo, che io la prima volta che ho visto scritto su un tabellone all'aeroporto Ulaanbaatar, mi sono veramente emozionato. Tu hai persino pensato a un rally da Londra fino a Ulaanbaatar in Mongolia. Sì. Adesso ci devi raccontare perché e soprattutto come il tutto questo. Sì, allora è un rally di beneficenza non competitivo che si chiama Mongolia Charity Rally, che faccio quest'estate insieme a Giorgio Gambarini, che è qua con me adesso. Ciao Giorgio, lo salutiamo così tanto per essere qua. Buonasera a tutti. Buonasera. E invece era con Giorgio Galli, che siccome oggi è il suo compleanno è fuori porta con gli amici. Beh, certo. Che voi non siete amici, quindi non vi ha invitato, diciamocelo chiaramente, questa è un po' la cosa. Allora, voi tre avete deciso di fare un rally di beneficenza, e che cosa consiste questo rally di beneficenza e soprattutto per chi? Allora sì, è un rally organizzato dall'Onlus inglese GoHelp, che parte appunto da Londra il 6 luglio e arriva a Ulaanbaatar non in una data precisa, nel senso è un rally non competitivo appunto, perché si può partire tutti insieme da Londra il 6 luglio, noi probabilmente partiremo da Milano una settimana dopo per motivi più economici. Cioè vi portate avanti col lavoro, insomma. Sì, no, più che altro che date le finanze abbiamo deciso di partire da qua, da Milano dove siamo. Sì, sì. E si arriva a Ulaanbaatar indicativamente dopo un mese e mezzo, dove si dona la macchina per farla diventare un mezzo sanitario, quindi un'ambulanza se è una macchina abbastanza grossa, se no un mezzo sempre di aiuto per la popolazione mongola. Cioè, quindi fate quanti chilometri? Allora, a seconda delle strade, noi vogliamo passare dalla Turchia, quindi sono intorno ai 15-16 mila. Ah, perché uno può scegliere il percorso che vuole, l'importante è raggiungere Ulaanbaatar? Sì, l'importante è raggiungere Ulaanbaatar, appunto, non è competitivo, nel senso che l'organizzazione ti aspetta indicativamente fino a fine ottobre. Quindi si può partire dal 6 luglio in poi, quando si arriva c'è un traguardo indicativo dove poi si lascia la macchina. Quindi facci capire, cioè nel senso che voi utilizzate le macchine nuove, spero. Se abbiamo la fortuna di trovarla, sì, se no ne compreremo una usata. Diciamo anche non nuovissima. Sì, ecco. Allora, se prendete una macchina non usata, cioè mettiamo basso chilometraggio, non sopra i 50.000 chilometri. Perché poi dovete farne 15.000, tra l'altro non proprio in strade, cioè le autostrade, cioè, capito? No, infatti si chiama rally per quello. Sì, ma non è che poi dovete lasciarli lì delle carrette in Mongolia. No, assolutamente. La nostra speranza è che qualche casa produttrice ce ne doni qualcuna, se no ne compreremo una. L'unica regola importante è che le macchine non devono avere più di 10 anni. Vero, però possiamo darti questa notizia, resta così, fermo, immobile, non so per chi tifi tu, per chi tifi? Io per l'Inter. Ecco appunto, appena pareggiato l'Atalanta, guarda. Senza arrestarsi. Guarda, veramente un momento imbarazzante, non volevamo dirtelo, però sta di fatto che appena pareggiato l'Atalanta noi non abbiamo colpa. Tra l'altro grandissimo gol di Dennis. Sì, sì, grandissimo gol di Dennis, che l'ha infilata proprio, è andata a toccare il palo alla destra di Handanovic, è entrato in area, ha uccellato Ranocchia come pochi sono riusciti nella vita della storia del calcio. Ranocchia non si è più ripreso. E poi di destro l'ha infilata a fil di palo, poi è andato verso la panchina, non si è tolto la maglietta, sennò veniva ammonito, ma si è dato, si è fatto dare un'altra maglietta dove c'era scritto Fuerza La Plata. La Plata è la zona alla periferia di Buenos Aires che ha subito l'alluvione con circa una sessantina di morti in questi giorni. Napoli intanto continua però a vincere. Scusa, non so, parliamo di questo rally con Tommaso Racco. Quindi voi tre partirete da Milano, l'auto sarà quella che sarà, e se parliamo di auto dobbiamo però prima parlare di traffico, quindi resta con noi sperando che poi durante il traffico l'Inter non prendi un'altra pappina. Ciao, grazie. Fallo di Fucca. Adesso Cavani sbaglia adesso. Potrebbe. Smetti, no, è vero. Deve essere ridicolo, dai. Dai e vai. Strade in diretta. Buonasera, la circolazione è tornata regolare su strade e autostrade, non ci sono particolari disagi da segnalare. Vi informiamo allora che sarà una settimana di lavori la prossima sulla 3 Salerno-Reggio Calabria. A partire da dopodomani, martedì 9 aprile, l'autostrada resterà chiusa tra Lago Negro Nord e Lauria Nord nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17.30 per lavori programmati nelle due direzioni. Il tratto sarà chiuso sempre in questa fascia oraria anche tra il 10 e il 12 aprile, ma solo in direzione sud. Ed è tutto, vi auguriamo buon viaggio. Dai e vai, non è solo calcio. Voy de Guayabera, con un radio de los grandes a mi lado, con la old escuela, escuchando mis cintas de rap en español, hangueando en la avenida, munching on a mango, you don't wanna tango, right through, I'm letting you know, bro, que I'm considered to be one of a kind, como el coquí, así que make some alboroto, if you're proud to be Puerto Rican, check out the lingo that I was freaking, straight from the New York. Non c'ho una canzone dedicata a Ulaanbaatar, te lo devo confessare, questo, ho cercato un attimo, però... Stavo pensando che era la musica che mi ricordavo Ulaanbaatar. Sì, proprio senti un po' dentro questa. Ma non il centro, la periferia di Ulaanbaatar, quelle zone un po' quella downtown di Ulaanbaatar. Sì, vabbè, devo farlo spiritoso adesso. Ho cercato un attimo. Non sono riuscito, però ci dicono, tra l'altro, ci suggeriscono, parliamo di cose inquietanti, la Sampdoria. Parliamo di cose serie invece. Allora, Tommaso, eccoti ancora qui a noi, stiamo parlando di questo rally, però stiamo parlando appunto, voi lascerete queste auto e quanti siete? Quante auto, quante ambulanze lascerete lì a Ulaanbaatar? Allora, il rally a cui partecipiamo noi, che è la versione no profit, credo che iscritti siamo una quarantina di team da tutto il mondo, cioè la maggior parte in Europa, però sappiamo anche di team dagli Stati Uniti, qualche team ucraino, dall'Australia. Poi ci sono altre varie versioni, nel senso che c'è anche la versione profit, quindi che si chiama Mongol Rally, dove lì adesso non so quanti saranno, ma credo che saranno anche lì un po' di team. Alla fine, cioè, da quello che ho sentito è dal Kazakistan in poi, dove ci sono poche strade, tutta una carovana solo di tir e di macchine che vanno che vanno in Mongolia appunto per questa iniziativa. Comunque a Ulaanbaatar lo sanno che voi arrivate, cioè sono pronti, sono preparati al vostro arrivo. Tu avevi già cercato tutte le strade, come arrivare, tutte quelle cose? No, adesso abbiamo definito il percorso pochi giorni fa, passiamo dalla Turchia, poi vogliamo attraversare il Caspio con una nave cargo. Ci colleghiamo al Kazakistan e da lì saliamo fino in Mongolia. Bravi, così risparmiate un po' le auto. Perché arrivare con delle auto che sono dei 14, non è bello, diciamocelo chiaramente. Siete tre studenti, giusto? Ho capito bene? Sì, siamo due di giugno, io faccio giurisprudenza insieme all'altro Giorgio, mentre il Giorgio che è qua con me è al Politecnico, fa design. Senti, passami l'altro Giorgio che è lì con te. Buonasera a tutti. Ciao Giorgio, l'ultimo esame che hai dato? L'ultimo esame che ho dato, stendiamo un velo pietoso che è meglio, va. Sì, meglio partire per Ulaanbaatar, diciamocelo. Sì, esatto. Siamo all'università alle spalle per il momento. Va bene, insomma, mi sembra comunque un'ottima idea questa, di portare in massa tutte quante le cose. Una bella avventura anche per voi, il viaggio. Qual è la durata così brevemente? Quanto pensate di metterci? Speriamo 35-40 giorni di farcela. Lì dipende più dalla macchina, più dalle condizioni stradali, più dalle frontiere, quanto tempo ci terranno impegnati nei passaggi burocratici da un paese all'altro. La dogana, insomma le solite cose. Ecco. Il problema sarà lì. Va bene. Ok, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e salutate anche il terzo che non vi ha invitati alla sua festa di compleanno e quindi voi restate lì tranquilli a cingischiare. Ciao, grazie, a presto. Ciao, buona ciao. Ciao, ciao, ciao. C'è questo problema Ranocchia Dennis stasera. Parliamone. Sì. Cioè, Ranocchia stasera Dennis non lo vede, cioè proprio niente, gli regaleranno un poster al fine della partita per fargli capire più o meno come è fatto Dennis perché non lo sta assolutamente. Attenzione, c'è un altro gol, incredibile. È ancora Dennis, è ancora Dennis. Scusa, non vorrei dire, ma l'avevo partita. Detto incredibile la rimonta dell'Atalanta, la tripletta del tanche da guarda, gli è già tirato al Napoli, adesso gliela tiri anche all'Inter, scusa no, ma era imbarazzante imbarazzante, Ranocchia veramente non ha visto proprio niente. Ecco, Strama mi dispiace un po' così, cioè. Diciamo, c'è una gara fra Tronchetti Provera e Moratti per vedere qual è la faccia più triste dei due in tribuna. Beh, nel frattempo Dennis fa il pugnetto, si bacia tutti i tatuaggi possibili e immaginabili. 4-3 per l'Atalanta. Tripletta di Dennis, giusto? Sì, si porta a casa il pallone. Sì, un bel hat-trick buttato lì così. Credo che gliene potrebbe fregare di meno. Comunque, porta a casa. Beh, sai. Poi secondo me, ma poi tra l'altro non ho mai capito, firmano tutti il pallone, no? Quando ce lo porti a casa. Di solito tradizione vuole che i compagni di squadra firmino il pallone. Ma non gli avversari. No, no, i compagni di squadra. Cioè non vai, ma secondo me sarebbe molto carino farlo firmare anche gli avversari. Okay, poi ci vai tu da Andanovic a dirgli, senti, ti ho infilato tre pere, firmami il pallone. Scusa, Anda, potresti un attimo mettere vicino un tre vicino al tuo nome? Esatto. No, beh, brutto sarebbe per certi versi, da questo punto di vista. Vabbè, insomma, sono cose belle. Intanto esce Pandev, per quelli che sono affezionati a questi momenti, sta andando via Panden e entra, chi è? Insigne. Lorenzo Insigne entra, si fa segno della croce per tre volte. Delusione un po' Insigne, ci si aspettava qualcosetta di più, sì, secondo me, però sono quei giocatori un po' così, però che non ha giocato No, vabbè, ma lui ce ne ha, solo devi mettergli Immobile di fianco, quindi nell'Under 21 va bene. Lui quando da solo non riesce a segnare, no, è un po' così, si sente isolato, è un po' così, la vive un po' male quella situazione. Vabbè, insomma, siamo arrivati al 33esimo in quel di Napoli, Napoli 2 Genoa 0, mentre 4-3 per l'Atalanta sull'Inter. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance I saw a shimmering light, my head grew heavy and my sight grew dim, I had to stop for the night. She stood in the doorway, I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the 349-238-6666, come abbiamo già annunciato tempo fa, sono arrivate delle frasi proprio precise, queste cose qua. Parliamo di cose inquietanti, la Sampdoria. Perché ce lo dite inquietante la Sampdoria? Ma non lo so, devi chiederlo a Marco di Genova. Cioè, un po' così, cioè, un po'. C'è magari tanto tifoso della Sampdoria. Sicuramente, diciamo, beh, vista la prestazione di oggi è abbastanza inquietante. Il 3-1 con cui il Palermo. Sembrava una ditta di asfaltatura strade, ecco. Il Palermo ha asfaltato la Sampdoria 3-1. Nel frattempo Vargas ha fatto un fallo cattivissimo nei confronti del povero Berami che sta rantolando vicino all'angolo e viene ammonito giustamente dall'arbitro. Beh, parliamo di cose un po' più complesse. Allora guarda, tu dico, il primo almanacco sportivo interattivo per i campionati giovanili e dilettanti. Te lo metto così, proprio lo butto lì come se nulla fudesse. Sei un giocatore, dirigente o allenatore della FIGC al dilettanti, iscriviti subito, la tua squadra è già presente in 46 Sport. Ah, 46 Sports. Scusa, che vai a cercare adesso? No, dovresti conoscere. Allora, di 46 Sport ne parliamo con Pierluca Martella. Pronto, Pierluca? Ciao ragazzi. Ciao. Bella ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi, un ragazzi po' così un po' ti ringraziamo. Fuori. Io ti abbraccerei solo per questa frase. Il complimento. Senti ragazzi, volevo dirvi un po' questa, cioè allora che questa storia qua di dovete convincerci che questo ha un senso tutto ciò. Allora, il primo almanacco sportivo interattivo per campioni giovanili e dilettanti. Che significa? In pratica per la prima volta abbiamo portato l'almanacco sportivo dalla carta al web e dai professionisti dilettanti, per cui permettiamo a chiunque di raccontare la propria carriera sportiva nel corso degli anni in un social network praticamente, quindi non rimane solo sulla carta come una collezione di dati, ma oltre a collezionare i dati permettiamo anche agli stessi attori di interagire online e quindi è un almanacco animato. Diciamo così. Ma allora, ognuno si fa il suo profilo, la sua descrizione? Sì, è come sì, ognuno può inserire la propria figurina riempie l'album di squadra come l'album Panini 2.0, diciamo, sì. E poi nel corso degli anni può raccontare la propria carriera attraverso le figurine, le foto, i video, ma soprattutto attraverso le proprie statistiche che riguardano le proprie partite. Che quelle sono oggettive, però la descrizione è soggettiva, cioè io posso dire di essere uno dei migliori sinistri del calcio italiano, non ho ancora scoperti, poi in realtà sono un carciofo. Ma non è proprio così, insomma tu puoi indicare le tue specialità, poi adesso carciofo, quindi in questo caso inseriremo anche il fatto di poter segnalare eventuali incorrettezze, insomma. E come? Ma avete presente come... Fermo un attimo, perché intanto Cavani gli hanno parato un colpo di testa veramente incredibile, fortissimo, da 2,5 metri, e il portiere del Genoa si è destreggiato in una parata plastica. In realtà gli è quasi arrivata addosso la palla, vediamo un po' bene. Sì, gli è quasi arrivata addosso, però si è buttato, sembrava un tuffo, invece niente di grave. Però il colpo di testa durissimo, fortissimo di Cavani, nulla di fatto. Dicevi appunto, scusa Pier... Dicevo, avete presente come funziona LinkedIn? Sì, in cui le come no, certo. Possono, appunto, noi abbiamo fatto praticamente il LinkedIn dello sport, quindi ci sono account gratis per tutti quanti e poi si possono lasciare delle referenze dagli allenatori piuttosto che i dirigenti, i giocatori o i compagni di squadra possono lasciare delle referenze sul tuo profilo e dire effettivamente che tu hai delle skills, quindi delle competenze, delle qualità. Senti, ma voi dite, vi chiamate 46 Sports, ma mi sembra che si parli solo di calcio qua. Al momento sì, siamo partiti da poco, stiamo gestendo il calcio perché è lo sport che tira di più in Italia, certo. È anche quello numericamente più interessante e importante, ma stiamo già lavorando per inserire il basket, il rugby e il bridge. E il bridge, perché è uno degli sport anche molto, molto seguiti. Senti, vorremmo allargarci un po' a tutti gli altri sport. 46 perché siete dei fan di Valentino Rossi? No, infatti il numero un po'. Perché adesso sei depresso. Adesso l'hai depresso. Senti, hai sentito come è caduto proprio. No, no, anche tu. Ah, che ce lo spiegassi. Sì, ma ha detto no, anche tu mi fai questa domanda. No, non è così, proprio depresso. No, vabbè, ci sta la domanda. Vabbè, però si poteva anche evitare. Però ti ha depresso un po', si è sentito proprio un calo di voce. No, però no, quindi no. 46 e il 46 per che cosa? Allora, in pratica la prima analisi che facciamo sugli sport. Siamo partiti dagli sport che riguardano il CONI, che sono 45, e noi ne abbiamo voluto aggiungere una, la 46esima, che è appunto il nostro portale che le raggruppa tutte. Sì, ma la 46esima qual è? La 46esima è proprio 46 Sports, insomma, è la voi stessi, loro stessi, diciamo, sì, sì. Ah, voi stessi siete, ho capito, fino adesso eravamo un po' così. Allora, senti, per capire, quanta gente abbiamo già dentro in questo momento? Abbiamo un po' più di 5.000 iscritti, siamo partiti da gennaio, quindi adesso da 3 mesi, siamo presenti gestiamo tutti i campionati della Lega Nazionale Dilettanti in Italia, dai 13 anni in su. Ci sono i profili dei giocatori, delle squadre, delle società sportive, i dirigenti possono iscriversi, anche gli allenatori. Ma quindi nella sostanza lì è anche un'occasione per poter, come dire, costruire anche delle squadre, completare delle squadre, fare un po' di mercato anche, è possibile? Infatti il mercato è una delle prossime funzionalità che inseriremo, quindi sarà la possibilità per le squadre di cercare i giocatori e per i giocatori di cercare squadre, quindi di mettersi in vetrina e di mostrare il proprio profilo con le proprie caratteristiche. Quindi stiamo parlando anche di agenti, insomma, in questo caso, di come si chiamano, i procuratori. Procuratori, giusto? I procuratori sono il nostro modo per fare soldi, in pratica quello che vogliamo fare, attendere e creare un sistema di ricerca molto efficace per gli osservatori italiani scout, che possono cercare i giocatori che hanno determinate caratteristiche, determinata un'età, che sono magari in centro Italia. Non male questa idea, se poi ci si aggiunge anche i video, no? Infatti, video, audio no, perché non importa farli sentire, però il video perché no, in particolare per giocatori stranieri che arrivano poi da fuori. Certo, infatti una delle altre cose a cui stiamo iniziando a lavorare è l'internazionalizzazione. Infatti adesso da maggio probabilmente inizieremo a lavorare su un campionato argentino e stiamo già prendendo dei contatti in Spagna per gestire un campionato spagnolo. E poi Coppa d'Africa, manetta, bisogna andare in giro. Coppa d'Africa tutto andare, naturalmente, perché lì i giocatori a 38 anni sanno... È l'inizio della carriera. Infatti è l'inizio della carriera. Vabbè, dai questo sito, diamo questo sito. 46sports.it. Ah, proprio così, facile facile. Vabbè, speravo qualcosa di più complesso. Ti ringraziamo molto, ciao. Grazie Pier. A presto. Cos'è 46 Sports, niente di particolare, però nel titolo si poteva anche evitare. Sì. Questo è un titolo così, ma che però ha un suo perché, prima o poi, per tutti quelli che sono interessati al calcio. Noi che ci interessiamo moderatamente al calcio, vi diciamo soltanto che l'Atalanta sta battendo l'Inter per 3-4 e quindi, o 4-3, come volete. Sono le 22:31 in questo momento, pubblicità. Dai e vai. Oggetti smarriti, buongiorno. Salve, ho perso metà SUV, metà computer e metà divano. E ora riattacco perché non posso permettermi più di metà telefonata. Domani potresti perdere metà di quello che hai. Non rischiare. Fai un check-up previdenziale e conserva per intero la qualità della tua vita futura. Pianifica la tua pensione con la competenza del gruppo Deutsche Bank. Rivolgiti agli sportelli Deutsche Bank o ai promotori finanziari di Finanza e Futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni contrattuali su gruppodb.com. Dai e vai. Non è solo calcio. Guardalo, adesso è nudo, come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda viene a galla. Palla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, gonfiato ed addestrato per la calcia di un pallone. Allora balla per me, bellina palla, che palla dopo palla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina palla, piangi sulla mia spalla, dai sopra il tuo dolore. A lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Dalla, a me bellina dalla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Guardalo, tuo principe azzurro, mentre si scioglie al sole come il burro. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio, che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, bellina balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me, bellina balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, bellina balla, che si è cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Luca Cancellara, ti vedo distintamente, stai ballando su questa canzoncina. Pronto? E tutti mi stanno anche guardando, quindi smetterei di ballare perché mi sento un po' osservato. Tenevi il ritmo così, col piedino, ciondolando un po' la testa, così, no, come al solito. Insomma, vabbè, sono quelle cose. Anche un po' con l'anca, devo ammettere. Ah, andavi anche di anca questa sera. Sì, sì. Vabbè, sì, certo. Che mi sembra che non sia il posto migliore per ballare stasera. Sì, cioè, no, devo dire che fuori da San Siro questa sera è desolante. Sentiamo un po' qual è l'umore dei tifosi interisti. Chissà quale sarà. Lei sta correndo via, è uscita, qual è il risultato? 4-3 per l'Inter, l'Atalanta. Qual è la medicina per quest'Inter disastrosa? Cambiare i giocatori. Chi vorremmo comprare? la squadra totalmente. Beh, anche chi vorremmo vendere, sarebbe interessante sapere, perché oddio, anche lì ce ne sono parecchie da vendere in questo. Buonasera, caso. Come ha visto l'Inter questa sera? Cosa ha detto? Niente, gli interisti sono veramente, veramente tristi. Ma strano, perché è inspiegabile questa cosa. Una cosa veramente che non avremmo mai... Non l'avreste mai detto. No, ma zero, anzi, tra l'altro dicevamo, guarda Moratti com'è allegro tutto sommato. Siamo al 46esimo. Ma di chi è la colpa? Siamo in diretta da Radio 24, come hai visto l'Inter questa sera? Fermo lì una... Una schifezza. Espulsione intanto, Luca, espulsione di un giocatore dell'Atalanta, via diretto, proprio senza colpo ferire, se ne sta andando il buon Raimondi. È stato espulso Raimondi, che intanto adesso sta cercando di scatenare la rissa, ma si stava comportando bene, perché se ne stava andando in silenzio senza dar tanto troppo fastidio, invece si è alzato e si è preso con Schelotto, che tra l'altro adesso sta dando cazzotti a destra e a manca, ha dato una sberla a un giocatore dell'Atalanta, forse vecchi regolamenti di Conti, come la sensazione fra Bonaventura e Schelotto non corresse del gran buon sangue, perché se la son presa con Schelotto. Ricordiamo, Schelotto fino a gennaio era nell'Atalanta e adesso gli sta facendo segno, guarda, brutto che gesto, no, più che altro ti becco, aspetto fuori, insomma, esatto. Quella cosa lì, insomma, quelle robe un po' strane, tra l'altro però è ancora in campo Schelotto, nulla di fatto, cioè andando vicinare in questo momento, siamo in pieno recupero, calcio d'angolo di Guarina, Andanovic colpisce la palla con una specie di mezza rovesciata, dopodiché torna Luca, nella sua area. Luca, di chi è la colpa? Buonasera, diretta Radio 24, di chi è la colpa di quest'Inter disastrosa? Un rigore inesistente inventato totalmente da Cervasoni. O c'è complotto contro l'Inter o c'è veramente un andamento di frittata arbitrale incredibile. Quindi la colpa della sconfitta di questa sera è tutta dell'arbitro. Tutta no, però diciamo che il rigore 3-2 non c'era, 3-1 comunque la partita era al controllo dell'Inter. Chi si potrebbe comprare per risolvere la situazione lì davanti, visto che si stanno infortunando uno a uno tutti quanti? Bella domanda. Magari Dennis, se li cambiamo il bianco, il nero o azzurro. E che sono tutti forti, o gli altri arrivano a Milano e tutti si imbocchiscono. E stiamo parlando di Schelotto? Stiamo parlando di Schelotto? Almeno quello, speriamo quello in testa, ancora l'erbi. Stramaccioni deve rimanere o deve essere cacciato? Ma penso che con quella rosa che abbiamo oggi, anche se arrivasse Mourinho, cioè, è poco da fare. E penso che bisogna ripartire dai giovani e avere un mister che comunque sappia lavorare con i giovani, li possano crescere e soprattutto giocare, perché se li lascia in panchina è inutile averli lì. Va bene, grazie. Lascialo andare a casa, dai Luca. Può andare a casa, sì. Abita tanto lontano dallo stadio e abito Como. Come? Ecco, non un po' di tratto di standard, sì, riflettere. Cioè. Mi raccomando, si fermi a prendere un caffè autogrill. Sì, Luca, vabbè, ho capito. Sì, ma Luca, non è che puoi avere delle simpatie particolari, cioè e blocchi tranquilli i tifosi. Sì, così. Cioè, non è che gli devi far da chioccia. Nel frattempo è finito a Napoli. Napoli 2, Genoa 0. Mazzari stringe le mani dell'arbitro Banti di Livorno. Quando mai manca quando? 30 secondi alla fine invece di Inter-Atalanta, esatto. Giusto? Mancano 30 secondi, l'Inter tutta avanti, anche Andanovic poco fa è tornato in avanti su un calcio d'angolo, nel frattempo è ancora Schelotto sulla destra che dà la palla a Guarin proprio sulla linea di fondo, Guarin la mette in mezzo, gol! No, incredibile! Ranocchia, cosa ha fatto? Ranocchia, che serata, veramente, cioè, se la ricorderà per tutta la vita, il portiere non c'era. No, era non per c'era. Terra, era sdraiato per terra, dopo... Ranocchia di Piatto è riuscita a metterla sopra non so che cosa. Quindi il portiere non c'era, a un certo punto è rifatto, questo è successo. È finita Aurora. Sette, impazzisce con l'Antuono, Atalanta praticamente salva con questo 4-3. Calma. Dopo il 3-2 dell'andata l'Atalanta fa 6 punti. Scusa, vediamo un attimo. Inter. Vorrei capire bene che cosa è accaduto però un attimo fa. Genere di gol. Praticamente non c'aveva nessuno davanti, il portiere si è buttato su un palo, c'era tutta la porta libera dall'altra parte e niente, e non è riuscito a metterla dentro. In questo caso Ranocchia, non so, secondo me lo venderanno. No, ma no, Luca magari... Luca, pazzesco. Eccomi, Eccomi. Ecco, diciamo che in parte la colpa di Ranocchia. Comunque tu, la colpa di Ranocchia. Non andare via, resta lì, non ti muovere, non te ne andare via, perché noi abbiamo un'altra intervista proprio ora da iniziare, proprio in questo momento. Ciao Luca. Vabbè, insomma, sono momenti difficili. Sì, che c'è? No, c'era molta tensione in campo, purtroppo poi è partita la pubblicità nella televisione. Non la viviamo, satellite. Non la viviamo come una censura. No, però, non la viviamo. Cioè, fatto sta che passaggio. Pare che la questione Schelotto non fosse risolta, perché c'era una specie di marmellata a centrocampo con Schelotto in mezzo, ma adesso stanno facendo vedere dei quadri rotti di una compagnia telefonica, quindi niente da fare, attendiamo che riprenda il collegamento con San Siro. Sì, nel frattempo, mentre si stanno invadendo, insomma, in qualche modo ci sarà qualche cosa, starà accadendo qualcosa lì, noi parliamo con Norberto De Angelis. Pronto Norberto? Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Tutti per qualche... Attenzione, perché c'è un rissone gigantesco, perdonami Norberto, è bruttissimo raccontare queste cose, però in questo momento ci sono veramente delle... c'è Schelotto che è scatenato e vuole farsi giustizia sommaria e sta aggredendo un po' tutti, e ovviamente anche Raimondi si è messo, anche lui ce ne ha messo del suo, insomma. Stanno cercando di placare tutti gli animi, tutti quanti, anche l'ex allenatore Colantuono è andato da Schelotto cercando di fermarsi, di non fare così, non è il caso, sei all'Inter, che te frega, scusa, non t'agitare. No, anche perché Schelotto è uno dei pochi centrocampisti un po' offensivi che hanno, visto che sono offensivi in che senso? Scusa. No, offensivi non dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del ruolo in campo, e si è rotto pure Cassano, poteva giocare un po' come Schelotto seconda punta, niente, adesso verrà esposto. Veramente squalificato, annichilito da questo evento, come anche un po' noi. Scusaci Norberto, non c'è problema. No, sono cose che dobbiamo in qualche modo raccontare, non è delle cose che proprio ci interessa particolarmente raccontare, però ci interessa più che altro raccontare le cose che tu stai per fare proprio in questo momento, tra poco, e lo leggo così per come ci è arrivato: un'impresa inedita che supera i confini fisici e sociali. E queste sono un po', come dire, alcuni eventi che noi ci interessa raccontare in questa trasmissione. Cerca di illustrarci e di raccontarci bene di che si tratta, perché la cosa è veramente strana, ma anche molto molto interessante. Allora, non è molto strana, è molto costruttiva, certo. Nel senso, c'è anche la casistica che gioca a mio favore, a favore della Onlus CEFA, con la quale stiamo prestando a fare questo progetto unico nella storia delle ONG della disabilità, nel senso che io 20 anni fa io ero campione europeo di football americano con la nazionale. Ah, sì. E quindi io giocavo a livello sportivo professionismo quasi. Ho deciso di andare a fare un'esperienza di volontariato in Africa con questa ONG di Bologna, il CEFA Onlus ONG di Bologna. Sì. E durante questa esperienza di volontariato ho avuto un incidente che sono entrato in coma e mi ha portato alla paraplegia, quindi io ho perso l'uso degli arti inferiori. Poi, cosa è successo? Qualche anno fa io ho avuto la bella idea di attraversare l'America a braccia. Cioè, io sono l'unico al mondo ad averlo fatto nei disabili con la hand bike. Cioè da costa a costa? Non esattamente, ho fatto la Route 66 dal lago Michigan, dal centro di Chicago, sì, fino al molo di Santa Monica. Ho pedalato per 3.798 chilometri in solitaria come disabile, quindi sono l'unico al mondo ad aver fatto questo. Sull'onda di queste vicende sono stato ricontattato dal CEFA, perché loro hanno un progetto in essere giù in Tanzania sulla disabilità degli africani, della Tanzania, che dal 2009, che è Less is More, il progetto si chiama. Less is More, sì. Less is More, sì. A sostegno dei disabili. È un progetto a sostegno dei disabili, sì. E che Less è dall'acronimo, che sarebbe l'acronimo Labor Empowerment and Social Service. Ah, ok, quindi. Services. Okay. E quindi mi hanno ricontattato essendo stato un loro volontario e tutto, se avevo intenzione di tornare giù con loro in Africa e fare la traversata da Tanzania in bike, per fare portare un progetto, un messaggio di solidarietà e di sensibilizzare le autorità locali sulla disabilità africana. Perché non c'è una considerazione particolarmente notevole, perché ci sono dei problemi. Qual è il motivo per cui sia necessario sensibilizzare le autorità della Tanzania? Perché là innanzitutto i disabili sono un peso per la società. Spesso i disabili, le persone disabili che nascono disabili vengono uccisi da nascita. Sono considerati una disgrazia. E la madre che partorisce un figlio disabile è una portatrice di IELLA e vengono accantonate, quindi gli stanno anche quasi lontana, perché ha portato IELLA, ha portato male in quella famiglia. E i disabili spesso, e dove ero io nell'interno, si usa andare dallo stregone per qualsiasi cosa. Certo. E quando, se uno ha dei problemi col campo, se ha dei problemi, dicono che per togliere il malocchio fanno seppellire un pezzo di bianco, cioè un dito o il polso di un bambino albino che viene ucciso alla nascita, per togliere il malocchio. E io con questa mia impresa, che non è un'impresa sportiva, ma con lo sport, dovremmo portare questo messaggio che anche un disabile può, che non è un peso, può fare cose interessanti, stimolanti, e soprattutto nel mondo del lavoro può fare tante cose. E io, ritornando nei miei luoghi, nel mio incidente, sì, incontrerò nelle varie tappe le associazioni di volontariato che lavorano sui disabili, per sensibilizzare anche le autorità, per portare un messaggio, che incominciare a fargli vedere che esistono altre realtà da quelle che conoscono. Quanti chilometri dovrai percorrere? I chilometri, infatti, ripeto, non è un'impresa sportiva, certo, perché non saranno molto, sono circa 750 chilometri. Beh, insomma, rispetto ai 3700 che ha fatto negli Stati Uniti, già, lui, certo, è una sciocchezza, se direi, la beve in un bicchiere d'acqua. Però, insomma, sì, sono sempre 750 chilometri. Sì, diciamo che non si usa la macchina per andare dal bar al comune, certo, alla farmacia. Certo, mi sembra, insomma, un'operazione abbastanza particolare. La cosa anche interessante è che il Comitato Italiano Paralimpico partecipa, no? Ha patrocinato questa operazione. Io sono in contatto anche, sì, con l'avvocato Luca Pancalli, che è il presidente del CIP, che è il Comitato, sì, Italiano Paralimpico. Paralimpico, sì, certo. E lui ha ben sposato la causa e ci ha dato il totale patrocinio e appoggio, anche perché noi partiremo durante la giornata nazionale paralimpica del 10 ottobre. Anche perché dovevano partire in quel periodo, perché dopo iniziano le piogge a fine novembre, certo. Quindi era a cavallo, anche perché lì è ancora il confine con l'inverno, quindi la temperatura sono anche accettabili, e presenterà questo progetto durante la giornata nazionale, anche perché questo qua è un qualcosa che esula dagli soliti discorsi: fate sport che fa bene, certo, fate bene. Guardate che con lo sport si può fare anche portare certi tipi di messaggi. E adesso con l'organizzazione, già la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro dove è stato stabilito che l'impresa si farà, perché i fondi arriveranno, però sono ancora in cerca, ovviamente, certo. E anche per questo si chiede di mettere un attimo la mano al cuore, se qualcuno vuol fare anche delle donazioni minime. Dove? Bisognerebbe contattare l'organizzazione, la ONG, che è tutto detraibile, che è, io da www.cefaonlus.it. Perfetto, va bene. E ripeto una cosa molto semplice, che anche con 20 euro si dovesse donare un paio di stampelle a un bambino, con anche donazioni minime si riescono a fare tante cose, e io ne faccio portavoce e ho messo mano e ho conosciuto la realtà 20 anni fa. È un'organizzazione è un ONG molto seria, che fa quello che dice. Va bene, noi ti ringraziamo, Norberto. Noi ovviamente seguiremo il tutto, ricordiamo l'indirizzo dove poter mandare fondi in qualche modo: www.cefaonlus.it. Questa è l'organizzazione che sostiene questa iniziativa. Grazie, Norberto De Angelis. A presto. Va bene, grazie a tutti. Buonasera. Ciao. Dai, vai, Radio 24, traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Le 22:48 minuti, circolazione praticamente scarsa su strade e autostrade. Le uniche difficoltà le segnaliamo alle porte di Roma, sull'Autosole. Ci sono code da smaltire di 1 chilometro tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano a causa di un veicolo fermo in panne in direzione Firenze. Non ci sono altri aggiornamenti, appuntamento alle 23:15. Dai e vai. non è solo calcio. Pronto? Eccoci, eccoci. Siamo qui fuori lo stadio San Siro. La tristezza ti sta avvolgendo, di la verità. Assolutamente, ho smesso di traballare col piedino alle vostre musiche, sono stato avvolto da questa tristezza dilagante. Ecco, allora. Buonasera, siamo in diretta su Radio 24, qual è la soluzione sollevare le sorti di quest'Inter? Speriamo che finisca presto la stagione, perché così non se ne può più quest'anno, è una cosa che non esiste. A questo punto qual è l'obiettivo stagionale? Ah, ormai la Champions è andata, sicuramente. Cercare di vincere qualche partita, tutto qua. E poi vediamo. Oggi si può tomare anche Cassano, dopo Milito, dopo Palacio. Però intanto la coppia Rocchi Alvarez li ha tenuto a galla per almeno la maggior parte della partita. Sì, però alla fine abbiamo preso 4 gol dall'Atalanta in casa, vedi un po' te se è una cosa che si può fare o no. Hanno giocato anche una buona partita oggi a tratti l'Inter. Sì. Poi abbiamo preso 4 gol da stupidi, senza concentrazione dietro. Secondo me manca la concentrazione a questa squadra e la personalità. Vinci 3-1 in casa con l'Atalanta, non puoi perde 4-3. Non c'è la personalità, la mentalità. Un giocatore di personalità che servirebbe subito domani? Ah, guarda, non te lo so dire. Da comprare oggi credo che non ci sia nessuno per l'Inter di Moratti in questo momento, visto che i soldi ce ne pochi, o quantomeno così si dice. Aspettiamo la prossima stagione e vediamo cosa succede. L'allenatore ci capisce poco, secondo me. Attenzione. Anche ragazzo, esperto, giovane. Non lo so, comunque la squadra non puoi vincere 3-1 in casa con l'Atalanta. Stavamo dominando la partita e prendi 3 gol in 10 minuti. Sì, non esiste. È pazzesco. Intanto Ranocchia lo vendiamo per levarci subito il dolore. Non lo so, Ranocchia ogni tanto ha di quelle amnesie difensive, si perde l'uomo, fa delle cose incredibili per essere un giocatore del suo livello. Sì. È deludente, oggi è stato deludente ancora una volta, non è la prima partita che fa così. Quindi anche Juan Jesus non ha fatto una gran partita. Samuel, se non dovesse tornare Samuel, avessimo risolto i problemi della difesa. Sentiamoci. Anche questo non è successo. Sentiamoci più spesso, magari. Cioè. Un SMS. Luca, cioè, vabbè, ho capito. Cioè. Avete visto, sono degli amiconi qua. No, ho capito. Ce n'è uno che ti parla, allora tu non te lo blocchi lì per tutta la sera. Non ho capito che modi sono. Lascialo andare, no? Vabbè. Di chi è la colpa? Sempre la solita domanda. Chi è? Di chi è la colpa? Cerchiamo di raggiungere qualcun altro. Ah, perché sono già tutti fuggiti, non ho capito. La grande fuga. Buonasera, in diretta Radio 24. Di chi è la colpa di questa sconfitta? Di chi è? Come possiamo dire? È che secondo me mancherebbe un centravanti. Un Milito purtroppo non c'è. Però intanto Rocchi Alvarez questa sera hanno segnato. Ma dai, smettila. Sì, ho capito, però dopo le gambe non hanno tenuto più. Sì. Cioè, la qualità di ottimi giocatori, ma la qua di Milito non si discute. Un nome quindi subito per il mercato? Un centravanti, un grande centravanti. Sì, poi più tutto il resto di questa stagione ormai? L'Europa League. Ma come l'Europa League? Sono questo via, che via. È rimasto purtroppo dal tifosissimo dell'Inter. Lascialo andare, grazie. Dai, che depresso. La prossima siete a piangere tra un po', guarda. No, ma infatti questa cosa qua è vogliono andare in Europa League l'anno prossimo, cioè è un danno totale che giochino solo il campionato. Ecco, ci sono per esempio degli SMS che stanno arrivando, arbitri speriamo in un linciaggio, mi sembra veramente ridicolo, soprattutto gli interisti sperano nel recupero di questa partita. Queste tutte cose che arrivavano già tempo fa, ma che però poi dopo speranze vane abbandonate a loro stesse. Luca, ci abbiamo ancora, ma sono già dati via tutti, di la verità. Un po' abbandonato a me stesso. Ma scusa, ma quanto tempo ci ha messo? Cioè, il tempo di un'intervista, sono già tutti fuggiti, cioè non voglio più parlare con nessuno. Cioè, no, diretto fino al 2024, questa Inter è disarmante, disastro. No, come no? Come no? Cosa ha fatto dai. Di chi è la colpa? Secondo, un po' di tutti, dai, dal primo all'ultimo. Qualche nome ti metto io, Ranocchia lo vendiamo subito domani, no? Ranocchia sì, lo vendiamo, ma che ne so, ma anche in seconda categoria forse lo prendono, cosa dici? Ci potremmo comprare lì davanti, anche se Rocchi e Alvarez che sono entrati e hanno segnato. Ma non so, mica si fa il nome di Sanchez, mi sembra un buon acquisto. Il nome non si paga. Non lo so, io venderei tutti, rifarei tutto da capo. Tutto. A partire dall'allenatore, sì. Io partirei da Schelotto. Beh, aggressivo. Aggressivo Schelotto, tra l'altro, stasera, Luca? Cioè, voleva mettere le mani addosso un po' a tutti alla fine, insomma. Ho sentito sì fuori che a un certo punto gli animi si sono accesi. Ma parecchio sono accesi, Non bellissima la scena, devo dire, con appunto... Allora, ho qui due tifosi dell'Inter che probabilmente si stanno rifocillando con un panino per rifarsi della sconfitta. Cioè, panino di che tipo? Non siete interisti, Atalantini, grande, quindi è tornato a casa con felicissimi e mangiato il panino. Ecco. Cos'ha il panino dentro? Scusami. Caramella e ketchup. Bravo. Scusa. Non lo so, pagato. Sì, lui. Ma stiamo parlando. Lui è Luca. Sì, quanto è costato questi due panini? Ma non c'entra, cioè, non è. Bisogna fare un'altra. Cioè, Luca, devi farle il servizio sportivo. Ma giochi il fantacalcio, avevi Dennis? No. Vabbè. Non fare quella faccia, Dennis è l'attaccante della tua squadra. Non interessa. Ti vedo bene intervistare i bergamaschi, adesso ti voglio vedere bello rilassato su questo approccio, voglio dire. Va bene, grazie Luca, mi raccomando, torna a casa presto, anche tu non ti fermare a mangiare salamelle, diciamo. E soprattutto non col ketchup, ma con la maionese, la sala cipolla, che vergogna, oppure la famosa porchetta, peperone e maionese, se proprio vuoi la maionese. E soprattutto il peperone, poi ho paura che mi stiano un po' la porchetta ti esce dalle orecchie. Ciao, grazie, è stato bello, ciao. No, torniamo a noi. Intanto c'è Mazzarri che da mezz'ora che è lì che sta parlando. Vabbè, ha vinto. Che non può lamentarsi, ha vinto, non può lamentarsi. Vabbè, infatti sono tutti d'accordo, ma fateci parlare con Stramaccioni che ci diverte. Stramaccioni stasera da fuori di matto. Se non intervisti stasera Strama, che cosa, chi intervista? Diciamo un po' Mazzarri. Che si vuole, ma è difficile che una squadra possa vincere qualcosa di importante con tutti o tanti giovani o troppi giovani. Troppi giovani. Certamente. Billy, per chiudere. Quindi il messaggio è diretto a Stramaccioni anche. No, non in panchina, in campo. Scusa. In quella squadra giocava Inler. La partita dopo, mister ha messo dentro uno che ha fatto 4 gol in 2 partite. Gemaili. Ecco, io gol, forse sperava solo nei gol, ma le ha dato qualcos'altro? Ma che domande sono? Ti hai dato qualcos'altro? Ma che modi sono? Sì, a me piace quando si gioca svelti in mezzo al campo. Abbiamo un tipo di manovra che richiede. Sì, c'è gioco veloce, gioco svelto. In un momento di forma mi è sembrato di farlo giocare perché. In attesa di Stramaccioni, io volevo salutare un attimo Roberto Scaltritti che ha seguito attentamente, devo dire, la trasmissione. Infelice Roberto Scaltritti. Sì. Con Giorgio De Luca che era dietro di lui. Infelice Giorgio De Luca. Luca Cancellara, non so se salutarlo, perché si sta mangiando porchette. Quindi anche lui, felice Giorgio De Luca Cancellara. Non ti saluto a te, in attesa, vediamo un attimo. Fai bene perché non sono felice. Non sei felice, ma dai, scusa, cosa ha fatto la tua Sampdoria? Ha perso 3-1. Scusa, seguo il calcio, ma non ho seguito bene la Sampdoria. Cos'è che ha fatto la Sampdoria? Ha perso 3-1 in casa col Palermo. In casa, vabbè, ma tanto poi quello che conta è la prossima partita, giusto? Gli amici palermitani. Sì, appunto. Gli amici palermitani che tanta gioia vi hanno dato. Inter Atalanta, adesso se la stanno tutti guardando serenamente, però di fatto, possiamo soltanto l'unica cosa che possiamo fare. Stramaccioni l'ha già agitato anche quando stava entrando, ti dico solo questo piccolo passaggio non irrilevante. Vabbè, comunque mi dai intanto Prosino per un riepilogo la classifica, che noi non la diamo mai, ma che secondo me così ha un senso in una squadra, in una trasmissione che parla di sport, esatto, no? Questa classifica, perché non è male questa classifica, esatto, tipo la Juventus ha vinto questo campionato italiano, quindi arriva a 29 scudetti, sono io scemo che ti chiedo di la classifica, con 71 punti ormai è vittoria matematica, matematica, che matematica hai fatto? Tu? Non è quell'idea, l'hai fatta. Sì, esatto. voglio dire. Napoli 62 punti, ha 4 punti di vantaggio sul Milan, che ne ha 58. Poi i punti di vantaggio del Milan sulla Fiorentina sono 6, perché ha 52. Inter e Lazio 50 punti, la Roma 47, però attenzione, Lazio e Roma domani sera avranno il derby, il posticipo del posticipo. Catania 46, Udinese 45, Parma 39 con il Cagliari, a 37 punti sale l'Atalanta e raggiunge il Bologna, 36 punti per Sampdoria e Torino, il Chievo a 35, poi qua c'è il baratro verso la Serie B dove lottano Genoa, Siena e Palermo, tutte e tre a 27 punti, e chi in B c'è già e praticamente sta organizzando il prossimo campionato è il Pescara a 21 punti. Sì, diciamo allora, per la Champions se la stanno giocando adesso, diciamo l'Inter è fuori, no? Adesso questo punto qua non c'è proprio più niente da dire da questo punto di vista. 8 punti, mancano 7 giornate, 8 giornate alla fine. Sì, se la gioca Napoli e Milan, insomma, in questo caso. Se la gioca Napoli e Milan, forse la Fiorentina, però si è giocata al Jolly oggi col Milan e quindi sono 6 punti da recuperare, mancano 7 giornate. Noi recupereremo, ne parleremo ovviamente domenica prossima, sempre alle 16 e sempre qui direttamente da Ivai, e non è solo calcio ed è anche però Radio 24. Risentirci, grazie.